piacerebbe fermarmi ad ascoltare quando fuori urla ancora forte un altro temporale. Mi piacerebbe avere tra le mani anche la luce delle stelle che riscaldi la mia pelle. Mi piacerebbe avere in fondo al cuore un milione di parole come braccia sulla neve. Dimmi se si può avere almeno l'anima libera, libera, avere almeno l'anima. Mi piacerebbe avere tutto il mare per poterci navigare senza il rischio di annegare. Mi piacerebbe avere anche il cielo per poterlo sorvolare senza il rischio di cadere. Mi piacerebbe avere in fondo al cuore